Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. Buon pomeriggio da Maria Luisa Pezzali, ben ritrovati con Essere e Avere. Dimmi cosa compri e ti dirò chi sei. Tra pochi giorni, il 14 dicembre, entrerà in vigore il nuovo regolamento europeo sulle diciture salutistiche dei prodotti e degli integratori alimentari, i cosiddetti health claims, espressioni ormai familiari a molti consumatori, quali rinforza le difese, favorisce la digestione, contiene il colesterolo, espressioni che l'Agenzia Europea per la Sicurezza Alimentare ha vagliato una per una, classificandole in base alle sostanze contenute negli alimenti e alla loro effettiva efficacia. Ebbene, d'ora in poi solo i 222 slogan accettati dall'EFSA potranno essere stampati sulle etichette dei cibi Tocca Sana e l'industria alimentare dovrà adeguarsi. Ne parleremo nel primo dei nostri approfondimenti. Focus sui trend dedicato invece ai consumi in gioco, quando prodotti, servizi e campagne di comunicazione divertono e fanno tendenza. Ma iniziamo come sempre con le notizie e curiosità di questa settimana. Sono oltre 5 milioni gli italiani che si dichiarano intenzionati a comprare i regali di Natale su internet. Secondo i dati Netcom, il consorzio del commercio elettronico, tra gli acquirenti online abituali, coloro che useranno il canale per gli acquisti natalizi saliranno a quota 44%. Torna la giornata del caffè sospeso. Domani, 10 dicembre, in concomitanza con la Giornata Internazionale dei Diritti Umani, nei bar aderenti all'iniziativa sarà possibile praticare l'antica usanza solidale partenopea. Lasciare un caffè pagato per chi ne ha bisogno. 40 i locali in tutta Italia. Li trovate su retedelcaffesospeso.com. La più grande banca danese è finita sul banco degli imputati per uno spot pubblicitario contestatissimo. Sommersa dalle critiche, Danske Bank ha dovuto cancellare dalla campagna pubblicitaria l'immagine di un ragazzo con la bocca tappata da una banconota con la scritta Occupy. Simbolo del movimento globale contro la crisi e il ruolo delle banche. Volevamo solo dire che il mondo è cambiato, ha replicato la banca alle critiche di ipocrisia. Una cioccolata per far tornare sui banchi di scuola 400 ex bambini soldato in Congo. È dedicato a loro il Natale 2012 di Intersos, che propone le cioccolate spalmabili, biologiche ed ecosolidali, sul sito intersos.org. H&M lancia la collezione per ciclisti metropolitani. 11 capi con materiali sostenibili, creati nell'anno in cui si sono vendute più due ruote che macchine, in cui il ciclismo è diventato un fenomeno globale, approvati da Brick Lane Bikes, primo store di bici a scatto fisso nel Regno Unito. La borsa della spesa. Previene l'erosione dentale. Aiuta la crescita. Rinforza le difese immunitarie. Serve a mantenere il tono di calcio nelle ossa. Favorisce la concentrazione. Aiuta a regolare i ritmi del sonno. Contiene il livello di colesterolo. Rallenta l'invecchiamento delle cellule. Erano alcuni dei claim, cioè degli slogan usati per molti prodotti e integratori alimentari, dall'acqua allo yogurt, dai biscotti alle gomme da masticare, dalle barrette ai succhi di frutta. Sono i cosiddetti cibi funzionali, gli alimenti che in virtù di alcuni ingredienti promettono benefici per la salute. Un mercato che non conosce crisi, basti pensare che nell'ultimo anno gli italiani hanno acquistato più di 139 milioni di confezioni di integratori, il 4% in più dell'anno prima. Sulle promesse stampate sulle etichette di questi prodotti ha voluto vederci chiaro l'EFSA, l'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare, che ha messo a punto un nuovo regolamento sulle diciture salutistiche, approvato dalla Commissione Europea e ormai vicino all'entrata in vigore il 14 dicembre prossimo. Il regolamento in pratica riordina tutte le espressioni che i produttori possono usare in base alle evidenze